paesi che incontreranno. Gonfia il mio silenzio e ciò che resta ai tuoi occhi, le mie mani ferme e gli amori che toccheranno. Gonfia la mia paura, il freddo di uno sguardo. I giorni persi e nascondigli che scoveranno il tuo viso. La gente che ci guarda, la gente intorno, la gente che ti piace. Compra il mio sorriso, adesso è più cattivo, le mie tasche rotte e i paesi che prenderanno. Compra i miei ricordi, quelli sì che sono in vendita, le mie staffottenze e le donne che ameranno. Compra la bellezza, la semplicità di una.